Storie italiane. Il fantastico viaggio di Sinbad, parte 1. Hey, Tuck! Hey, Tick! Posso chiederti una cosa? Perché questo oceano è sempre così noioso? Noioso? Di che cosa stai parlando? Questo è il luogo dell'avventura e degli esploratori senza paura. Ah, oh, sì. Le avventure dell'acqua. Le onde sono una gemma da vedere. E questi viaggiatori sono così impavidi da nutrirmi di cibo vecchio. Dai, dai, non essere così negativo, Tick. Di tanto in tanto arriva un uomo che mostra coraggio e amore per l'ignoto, come Sinbad. Sinbad? Sì, Sinbad il marinaio. Non lo conosci? Aspetta, andiamo alla pentola magica. Vale la pena vedere i suoi viaggi. Bene, ma questa è solo acqua? Hai intenzione di fare qualche abracadabra? Ah, abracadabra è vecchio ormai. Guarda e impara. Acqua, acqua limpida e blu, mostraci tutto ciò che in te si è perso. Oh, acqua magica, mostraci la storia di Sinbad il marinaio. Benvenuti a Baghdad, la città dei brividi e la casa del nostro Sinbad il marinaio. Sinbad, ho sentito che stai per andare in un altro mercato per fare affari. Sì, zio. Sono stato sciocco a spendere tutti i soldi che mio padre aveva guadagnato. Non ho più niente. Devo portare avanti i suoi affari. Domani salperò insieme ad altre persone di Baghdad. Molto bene, figliolo. Buon viaggio e fai attenzione. E così Sinbad partì per il suo primo viaggio. Sinbad amò la sua prima volta a bordo. La brezza, il vento, le fresche acque blu lo chiamavano. Ma lentamente se ne stancò. Voleva disperatamente calpestare la terra, ma non c'era traccia di una singola isola nelle vicinanze. Quando improvvisamente... Capitano, vedo una piccola isola! Capitano, guarda! Oh, quest'acqua mi stava uccidendo! Finalmente un pezzo di terra! Quest'isola sembra bellissima. Ehi, hey, Sinbad! Dove vai? Il cibo è pronto! Tornerò presto. Voglio guardarmi intorno un po'. Qui è tutto bellissimo, ma ho la sensazione che qualcosa non vada. La terra sembra un po' diversa. Aspetta, cosa sta succedendo? Perché la terra si sta muovendo? Devo tornare sulla nave. Sinbad correva a tutta velocità, ma si era spinto così lontano nella foresta. Fu una lunga via del ritorno. Nel frattempo anche gli altri mercanti sentirono la terra muoversi. Perché l'isola si muove? Lo senti anche tu? Ehi, sveglia! L'isola si muove! Qualcosa non va! Sì, torniamo alla nave! Correte! Questa non è un'isola! Questa è una balena dormiente! Si è svegliata per il fuoco! No! Perché questa balena dormiva sull'acqua? Mettetevi in salvo! Correte! E questo è ciò che successe. La balena aveva dormito così a lungo che un'intera foresta era cresciuta sul suo corpo. Tutti erano così terrorizzati, non sapevano nemmeno chi fosse salito sulla nave e chi fosse rimasto indietro. Sinbad correva più veloce che poteva, ma poi... Wow! La terra si sta ritirando. Cosa sta succedendo? La balena stava andando sott'acqua e stava portando con sé tutta l'intera foresta. No, aspettate! Sinbad pensava che fosse finita per lui, ma il destino aveva qualcos'altro in mente. Oh, i miei uomini! La dama è sparita! Che cosa faccio ora? Non devo perdere la speranza. Quest'acqua mi porterà da qualche parte. Sinbad galleggiò sull'albero per giorni e notti. Alla fine raggiunse una spiaggia. Era così stanco che si addormentò immediatamente. Quando si svegliò, aveva molta fame e sete. Oh, non c'è niente in questo posto. Se voglio sopravvivere, devo cercare di arrampicarmi. Ci deve essere qualcosa lassù. Wow, che posto è questo? Acqua! Oh, grazie al cielo. Quando ero sulla nave mi mancava la terra. Ora sono qui e mi manca l'acqua. Ah, sono così affamato. Cos'è questo rumore? Cavalli? Quindi ci devono essere anche delle persone in giro. Sei un cavallo forte. Dov'è il tuo cavaliere? Ehi, non ti abbiamo mai visto qui. Chi sei? Oh, sono così felice di incontrare finalmente uomini. Non preoccuparti, non sono ladro altro. Avevo fame, quindi sono venuto nella foresta per trovare del cibo. Sono un marinaio. Ero su un'isola galleggiante, che in realtà era una balena che ha cercato di annegarmi. E poi... una balena, va bene. Forse hai battuto troppo forte la testa, amico mio. Diamogli un po' di cibo prima. Sono sicuro di aver battuto la testa, ma era davvero una balena. Ma sì, un po' di cibo sarebbe carino. E poi mi ha portato giù con sé. Voglio dire, immaginate, in tutti questi anni la balena galleggiava con una foresta sul dorso. Un'intera foresta. E poi una manciata di uomini il fuoco l'hanno costretta ad andare sott'acqua. Non sono sorpreso che la balena fosse arrabbiata. Ve lo dico, il mio equipaggio non si è nemmeno accorto della mia assenza mentre tiravo sull'ancora. Non posso biasimarli. Tutti erano spaventati per le loro vite. La mia sfortuna, vi dico. Sono l'unico che è andato alla deriva. Sfortuna? Di che cosa stai parlando? La tua storia è geniale. Sai che veniamo in questa parte dell'isola solo una volta all'anno per sfamare i cavalli del re? Se fossi andato alla deriva domani, non saremmo stati qui. Non avresti mai trovato un modo per raggiungere la parte abitata dell'isola senza noi. Parte abitata? Certo, dove vive la gente. Lascia che ti portiamo lì. Il nostro re sarà felice di ascoltare la tua storia. I soldati portarono Sinbad nella parte abitata dell'isola. Era un piccolo regno con persone gentili. Sinbad incontrò il re e gli raccontò la sua storia. Questo mare è davvero pieno di sorprese e misteri. Sei un uomo coraggioso. Chiederò ai miei uomini di prendersi cura di te. Oh, Vostra Altezza, questo è più di quanto potessi desiderare. Questa mattina ho creduto di morire su quest'isola. E adesso sono di fronte a un generoso re. Per favore, lasciami fare qualcosa per te. Allora vuoi guadagnarti da vivere qui? Sono impressionato. Non hai detto che eri un mercante? Bene, allora il lavoro perfetto per te. Perché non ci aiuti a tenere i registri di tutte le merci in transito dal porto? Oh, sarebbe grandioso. Sinbad fu davvero onorato di poter essere d'aiuto. Dopotutto, gli avevano salvato la vita. Passarono alcune settimane e Sinbad, essendo sempre lo stesso, si annoiò del lavoro. Come potrei mai tornare a Baghdad? Il re mi presterebbe una nave per tornare indietro? E come posso fare? Come se conoscessi la strada. Per quel che ne so, potrei finire di nuovo con la balena. Scommetto che la sua vita è più avventurosa della mia adesso. Una volta, mentre Sinbad stava registrando il carico... Quindi questo appartiene a Sinbad. Aspetta, Sinbad? Ehi, io ti conosco. Davvero? Non pensavo che la mia faccia fosse così comune. Questo carico appartiene a un mercante che avevamo sulla nostra nave, Sinbad il marinaio. Purtroppo lo abbiamo perso in mare. Bontà divina, sono Sinbad il marinaio. Ed io sono il re di questa terra. E questa era una brutta battuta. Conosco il re di questo posto e sto dicendo la verità. So della balena. Mi ha portato sott'acqua e sono arrivato qui. Sono davvero Sinbad. Oh, non ti ho mai parlato della balena. Mi stai dicendo la verità, vero? Oh, Sinbad, è così bello rivederti. Tornerai indietro con noi? Sì, ovviamente. Mi manca casa. Dovrò incontrare il re e spiegargli tutto. Sei un uomo fortunato di poter tornare a casa, Sinbad. Hai lavorato molto duramente qui. Chiederò ai miei uomini di liquidare il tuo pagamento. Ecco, credi questo. Fai un buon viaggio. È così gentile, Sua Altezza. E così Sinbad salì sulla nave e raggiunse casa. La sua gente, gli amici e la famiglia. Wow, Tak! Questo oceano è sicuramente pieno di molti misteri. Una foresta su una balena. Chi l'avrebbe mai detto? Non è tutto, Tik. Non sai nulla della storia dell'uovo? E quella dei serpenti? Cosa? No! Dimmi! Tutto a suo tempo, amico mio. Ora andiamo a mangiare qualcosa. Io ho fame. Sì, andiamo sulla balena addormentata. Cosa? No, non ho voglia di volare così tanto ora.